Oh, profughi d'Italia, all'avventura si va senza rimpianti né paura. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Nostra patria è il mondo intero.